se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa è una di quelle mattine in cui voglio compiacere il pubblico della radio, quelli che mi ascoltano dalla radio nel caro, vecchio, caldo apparecchio radiofonico, quello con il segno fatto con lo smalto da unghie sulla frequenza che si ascolta da anni, e spero che la frequenza sia quella in cui trasmetto in questo momento. Ho un po' trascurato ultimamente l'ascolto tradizionale radiofonico, dedicandomi in maniera precipua a un pubblico particolare che forse non avverte, non sente come appartenente alla sua categoria il pubblico dei radiofonici puri. È il pubblico di coloro che ascoltano la radio attraverso il loro strumento di lavoro, attraverso il computer. Questa mattina quindi farò un doppio esperimento. Da una parte farò una trasmissione di quelle all'antica, di quelle che piacciono al vecchio ascoltatore, alla vecchia ascoltatrice, non in senso anagrafico, in senso di affezione tradizionale per il mezzo radiofonico, e una trasmissione che manderà in sollucro quelli che in questo momento mi ascoltano tramite il computer. Dunque, io sono in questo momento in diretta video attraverso la pagina di Facebook del mio profilo, si può vedere, perché sto sperimentando una maniera diversa di contaminazione attraverso la radio. Quindi per quelli che mi ascoltano attraverso il computer potete vedere quello che accade in questo studio, non soltanto me, che non è gran cosa da vedere, ma la callipigerrima Roberta Cirillo, che è l'operatrice di questo esperimento propedeutico alla puntata di domani. Domani spiegherò ai radiofonici di cosa si tratta, qual è questo mondo parallelo dei social network che evoco ogni mattina senza che magari nessuno ne sappia esattamente cosa sia. E quelli che invece mi ascoltano la radio ascoltino quello che è questa mattina l'argomento della trasmissione. Mi chiamo Laura, ho 30 anni e faccio la redattrice. Ho una storia di amore importante alle spalle, anzi la sto vivendo tuttora con mio marito, una storia che dura da 13 anni e da 3 sono sposata. Non ho mai in questi 13 anni tradito mio marito fisicamente, poi chiaramente qualche attrazione per altri uomini l'ho avuta, ma si è fermata lì. Laura, una brava signora, una brava mamma, una grande sposa, una seria professionista. Anche lei nel corso della sua esistenza, e lo confessa la radio, perché la radio si è presa in una certa maniera più insidiosa di ogni amico mellifluo, di ogni istigatore, di ogni estorsore di confessioni, confesserà qualcosa di inconfessabile, confesserà il suo incontro con la passione. Ora, passione è un termine forse un po' abusato, abbiamo talmente tanto parlato di passione che sembra ormai qualcosa di astratto, ma questa mattina, arrivando alla radio e vedendo che finalmente è arrivato l'inverno, finalmente è scesa la nebbia, finalmente comincia a arrivare quel freddolino che ti ghiaccia le ossa, che ti fa sentire quei brividini che annunciano che l'influenza è vicina, quindi è inverno. Quindi improvvisamente cala una coltre indifferenziata sul mondo che ci circonda. Non vediamo più bene le persone, vediamo soltanto i contorni. Questo a me piace, perché io vedo soltanto mostri attorno a me, ma è una mia deformazione. Vedo mostri, la mattina vedo persone mostruose. Mi sembra di essere entrato in un film di Romero, di zombie. Poi guardo le vetrine dei negozi, vedo riflessa la mia immagine, vedo che anche io sono mostro. E mi domando, questo termine passione, che sembra che ci accenda la fantasia, ci vada a scavare nel più profondo delle nostre viscere ricordi lontani o ricordi vicinissimi, per qualcuno magari sono ricordi di soltanto qualche ora fa, beato, se la sente ancora addosso, sente l'odore, sente il sapore, i morsi della passione. Per altri è una velleità, una speranza, qualcosa che si sente perduto. Beh, dov'è la passione? 800 24 00 24. Oggi che si vede così poco il mondo, guardiamo il nostro mondo interiore, vediamo se ancora c'è traccia o spazio per passione, come c'è stata traccia e spazio per questa nostra amica. Ho deciso di finire i lavori a casa mia 2 mesi fa e è capitato a casa, sono capitati 2 ragazzi, uno dei quali ha catturato la mia attenzione in maniera particolare. Io per mestiere sono solita incontrare, certi operatori, quindi voglio dire ero abituata ad avere a che fare con muratori, elettricisti e gente di questo tipo, e chiaramente tengo sempre le distanze perché il mio lavoro è quello di dirigere e quindi non mi posso permettere di, come dire, entrare troppo in confidenza con le persone. Per la nostra ascoltatrice, l'amica, anche lei attinta dal mondo indistinto e oggi abbastanza vituperato di coloro che si muovono nei social network, che sono accusati di essere una sorta di compulsivi, bisognosi di rapporti clandestini, di rapporti che vadano oltre ogni regola, ogni convenzione, l'uso della protesi elettronica come strumento di ricordo e sollecitazione di emozioni è oggi fra i più vituperati e condannati strumenti di relazione. Domani ne parleremo in maniera approfondita, ma chiamando l'800240024 oggi parliamo delle passioni che attengono la nostra esperienza di esseri umani, solamente esseri umani che in giornate nebbiose si accorgono, si ricordano o vorrebbero avere a che fare con la passione, come questa ascoltatrice. Fa l'architetta, ha contatti continui con delle persone che non appartengono comunque alla sfera delle sue lecite passioni e, come sempre accade, proprio per questo scattano in lei desideri di passioni non forse troppo lecite. Piano, di giorno in giorno, si è sempre di più avvicinato a me, finché niente, è scattato, insomma, dopo una quindicina di giorni che lo avevo a casa, insomma, è venuto in casa e... La prima volta che ci siamo baciati, lui mi ha seguito in cucina per prendere dell'acqua, quindi una scusa banale perché chiaramente fuori c'erano altre persone che lavoravano, e mentre io stavo fra l'altro preparando il caffè, lui si è avvicinato alle spalle e mi ha cominciato a baciare. Io cercavo di allontanarlo, però insomma è durata ben poco questo tira e molla, perché poi alla fine mi sono lasciata andare. Ed ecco che scatta quella molla che nella vita di molte persone scatta normalmente. Adesso si offende un ascoltatore perché gli ho risposto in maniera colorita. Vedendomi in trasmissione video ha detto: ah, pensavo tu fossi più rilassato in diretta, sembra tu abbia una scopa nel di dietro. E gli ho risposto naturalmente che questa scopa poteva farne lui un uso proprio, e adesso è rimasto offeso. Vedete, le persone hanno questa sorta di mammolettismo lessicale, vogliono fare i rudi, ma se uno è più rude di loro poi rimangono male. Ma questo denota una profonda disattitudine alle passioni improvvise, attitudine che invece dimostra la nostra amica architetta. Vede il rude muratore ancora odoroso di sudore e di calcina, è un suo sottoposto, è una persona che da lei prende ordini, è qualcuno con cui lei non dovrebbe avere che rapporti professionali, ma ahimè scatta qualcosa che all'inizio sembra soltanto un romantico scambio di effusioni, ma in realtà, come sempre accade, quando nelle giornate nebbiose, nelle giornate polverose di calcina ci si lascia andare alla passione, accade sempre qualcosa da cui è difficile poi tornare indietro. È completamente diverso da me. Lui ha cominciato a lavorare all'età di 13 anni, è andato via di casa a quell'età lì, quindi insomma si è fatto le sue belle esperienze. Ha frequentato, diciamo, personaggi, persone, ambienti che nel mio mondo non si dovrebbero tanto frequentare, personaggi che io reputo un po' loschi, un po', insomma, che le cose tanto corrette non le combinano. Io invece sono famiglia borghese, abbastanza benestante, ho studiato fino a 26 anni all'università e quindi insomma un mondo completamente diverso, cioè io certe cose le ho scoperte ora con lui che succedono nel mondo e quindi questo mi spaventa, però c'è un'attrazione fortissima, quella che io penso di non aver neanche mai provato per un uomo, neanche con mio marito, che è quell'attrazione che quando vedi la persona non gli resisti, cioè non c'è modo di sfuggire a questa cosa. Questa limpida e disincantata confessione dimostra che in realtà non sempre il lasciarsi andare alle passioni produce profondi, insanabili e perniciosi sensi di colpa. Esiste anche una candida e serena accettazione del fatto che se il fulmine passionale ci coglie impreparati o ci coglie con una grande attitudine ad essere fulminati o ci coglie comunque come esseri umani con tutte le nostre limitatezze, le nostre debolezze, la nostra impossibilità di fare fronte sempre a tutto ciò che attenta ai placidi e corretti binari della nostra esistenza, in realtà questo può essere uno dei fatti della vita. 80024 0024, vedo titubanza, vedo disattenzione, vedo pudibondo timore di lasciarsi andare perlomeno al ricordo di una passione o al desiderio di una passione o anche alla forza con la quale si è resistiti a una passione. Molte volte le passioni ci si presentano come le grandi occasioni della vita e quando qualcuno resiste a queste passioni a volte si sente fortificato, a volte si senta, ahimè, di aver perso qualcosa. Andrea, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Niente, volevo raccontare la mia esperienza, o meglio, quello che grazie anche al gruppo con Facebook ho conosciuto, nel senso che sono un ragazzo di 24 anni, studio, e come tanti penso sono attratto da donne molto più grandi di me. Quanti anni hai? Non ho capito? Quanti anni hai? 24. Beh, non c'è molto di singolare in questo. Infatti. Però, anzi, diciamo che è una sana attitudine, nel senso che apprezzi le donne non tanto per lo stereotipo fisico di compattezza carnale che dà la giovinezza, ma l'apprezzi anche per quel patrimonio di saggezza e di esperienza, anche in fatti amorosi, che logicamente i buon gustai conoscono bene, ecco. Però devo dirti che io mi sono iscritto al tuo gruppo dei mille principalmente per conoscere le persone. Sì, però scusami, visto che esiste questa grande ipoteca, scusa se ho interrotto, poi ti lascio parlare. Non facciamo passare come il gruppo dei mille, come un'agenzia di collocamento di anime in pena. C'è di tutto, però tu ti sei iscritto al social network, domani sarebbe l'argomento, però bypassiamo l'aspetto, diciamo la metodologia. Fammi capire. Io l'ho fatto perché penso che le persone che ti ascoltano e quindi cioè, in generale i tuoi ascoltatori siano già stati, abbiano diciamo passato una certa selezione e quindi ero interessato a conoscere le persone che ti ascoltano e a stringere rapporti interpersonali con queste e ci sei riuscito. Donne che ti ascoltano. Ci sei riuscito? Senza fare nomi. In realtà non è che mi sono impegnato tanto in questo poi alla fine. Quindi zero. Senso, forse il mio è anche un appello, tra virgolette. No, guarda, stai peggiorando la tua situazione perché io non posso essere agenzia di collocamento per i tuoi bisogni giusti di conoscere persone. L'appello, quello che puoi fare, l'appello qua, donne di una certa età che c'è un ragazzo che vi sta cercando, non mi sembra carino, no? Questo lo trovi passionale. Sì, tanto... lo trovi passionale, però dov'è la passione? Cioè, tu cosa dai in cambio? Queste donne perché dovrebbero dedicarti la loro attenzione? Ma oggi parliamo di passione. Anche ascoltando anche la tua ascoltatrice di prima, alla fine io non è che ci vedo tanta passione. Alla fine è una ragazza di 26 anni che ha scoperto di trovare qualcosa di diverso anche al di fuori del marito e non lo riesce, invece di chiederlo al marito lo trova in qualcun altro. Ma uno lo trova sempre in ciò che appartiene all'orticello del vicino di solito. Questo non voglio mettere in crisi le passioni cementate dal tempo e dalla frequentazione, però c'è un momento in cui la passione ti coglie e non ti rendi nemmeno conto, tu magari sei debole in certe circostanze per cui non sei così forte a fronteggiarla e poi non è manco scritto da nessuna parte, non debba per forza fronteggiarla. Io curerei un pochino la controparte, se posso darti un consiglio, non basta semplicemente mettersi su piazza e dire sono disponibile, bisogna avere qualcosa da dare anche alla controparte, poi guarda che le signore in età, non dico matura, ma in età di esperienza sono molto esigenti e non si accontentano soltanto del muratore perché è muscoloso, perché rappresenta la rudezza. Quel muratore, come vedremo poi, aveva qualcosa di diverso da dare a questa signora. Ciao, salutiamo e passiamo a Fabio. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Tutti sì, uomini questa mattina, bene, ditemi. Avevo una curiosità, volevo sapere se il marito di questo architetto toscano, la ragazza di cui che stava parlando, è al corrente di questa relazione. E perché è importante secondo te? Perché io sono... Sei preoccupato? Per la categoria dei mariti? Fra, Ma io sono preoccupato abbastanza in generale, perché comunque essendo uno di quegli uomini che stanno spessissimo in giro a lavorare, non è che sono preoccupato, ma comunque tendo ad aspettarmi comunque una situazione che potrebbe nascere anche con la mia attuale donna, la mia moglie. Fa parte dei rischi, noi non abbiamo l'esclusiva totale, se non in tempi in cui esistevano le cinture di castità e gli harem sulle donne che, con cui condividiamo la vita. Come noi sappiamo benissimo quanto possiamo essere deboli, perlomeno ad essere attraversati, anche senza cedere, dal fulmine della passione. Anche la donna che abbiamo accanto, la madre dei nostri figli, l'angelo del nostro focolare, potrebbe incrociare ogni momento un muratore, un idraulico, un artista, un cantante, una persona meravigliosa e compiere questo gesto. Quindi te preoccupava sapere se il marito sapesse o meno? Più che preoccupava, mi interessava. Non è tanto una preoccupazione, quanto proprio un interesse nel suo sapere, perché questo architetto toscano, che mi sembrava così molto candido, molto una ragazza abbastanza così pulita. Ma perché secondo te bisogna essere sporchi per avere una passione extraconiugale necessariamente? Solo le persone sporche le hanno? No, è una domanda. Pulita, no. No, non è che per caso, scusami, io voglio essere malizioso, ma dammene, che tua moglie fa l'architetta toscana, no? No, la tua preoccupazione era così. No, assolutamente no. No, era una curiosità che mi ha colpito. Io, guarda, peraltro, noi non l'abbiamo chiesto e nemmeno ci interessa tanto se lo sappia, se non lo sappia. La passione ci sembrava così forte, così genuina, che anche candidamente esporla alla radio, esporsi al rischio che magari il marito possa sentire, sembra quasi il voler dare un campanello di allarme che qualcosa forse da rimettere a posto in quel rapporto c'è, o forse no, non siamo psicologi. Prima volta l'abbiamo fatto dopo però un mese che ci conoscevamo, che ci frequentavamo, e l'abbiamo fatto in un albergo. Ci troviamo e ci scambiamo solo telefonate e messaggi per telefono, perché lui non è che utilizza il computer. Il telefono è mio, quindi il telefono rimane sempre con me. E cerco, per dire, se prima magari poteva succedere che lo lasciavo da qualche parte, ora è assolutamente impossibile. Cioè, il telefono è sempre con me e ha la vibrazione, in modo che nessuno si può accorgere se mi arriva un messaggio o una telefonata. Io ho un lavoro che sono sempre stata molto libera, autonoma negli orari, negli incontri, quindi riesco bene anche a gestirmi questi incontri e questi orari. Mio marito uguale, perché fa un mestiere per cui è molto spesso via, e quindi non è che mi risulta difficile. L'unico problema che ho è che io non sto in una grande città, sto in un paese, quindi vivendo in un paese e nei paesi limitrofi tutti ti conoscono. Stefano, secondo lei la noia e non la passione a spingere la nostra giovane architetta nelle braccia del muratore, che poi vedete, personaggio torbido, segnato da passati foschi, forse pregiudicato, frequenta gentaccia, quindi decisamente la porta nei bassi fondi della società? Secondo me sì. Allora, il problema quindi è senza noia non può scattare la molla della trasgressione? Diciamo non sempre. Però, almeno nel caso specifico, a me sembrerebbe che sia la noia che fa scattare la passione in questo caso. Quindi la passione nasconde la noia, quindi non so quanto sia poi vera. Se una persona si annoia, fa di tutto per uscire da questo... Ma tutto. Potrebbe anche essere una persona si annoia per mancanza di passione. Ma sa, sentendo la storia della ragazza, si annoia da un bel po'. Famiglia borghese, anche fino a 26 anni. Anche nelle famiglie proletarie c'è una gran noia di mogli, guardi, le assicuro. Lo so, però nelle famiglie borghesi secondo me la noia si sente di più. Lei ha parlato di valori ben precisi, di non conoscevo niente fino a che non me l'ha fatto conoscere lui. Questo dovrebbe entrare nella sfera privata dei suoi rapporti personali. Melog 2.0. .800240024, certo è molto difficile parlare di passione con Roberta Cirillo di spalle, prona sul suo computer, che sta mandandomi in diretta streaming sul mio profilo Facebook. Roberta, hai difficoltà tecniche? Avvicino il microfono alla Cirillo. No, sto provando a ripristinare l'audio della radio per far sentire anche le telefonate, ma la vedo dura. Senti, gli ascoltatori che stanno scrivendo proprio sull'interfaccia che ci sta riprendendo video, cosa stanno dicendo? Qual è il polso della trasmissione da quelli che invece scrivono nel mondo più lontano possibile dalla radio tradizionale a cui mi sto dedicando stamattina? Ma vedo che più che altro sono saluti, commenti sul fatto che si veda dietro le quinte della trasmissione e quindi anche tutte le cose che tu dici di nascosto dagli ascoltatori. Cioè che si veda te soprattutto. No, adesso te sbaglio, perché io volevo far vedere te. Vabbè, attenzione, attenzione anche a quello che si vede. Molte volte si vede quello che la Cirillo non dovrebbe far vedere. Attento a quello che dici. Lontano dal microfono, riprendiamo il punto, stiamo parlando di passione, abbiamo mandato una passionale storia di un'ascoltatrice che ci ha reso con limpida testimonianza, giovane architetta, si lascia andare alla rude passione per un turpe muratore, turpe in quanto frequentatore di amicizie pericolose. E Stefano, che è il nostro ascoltatore che ha atteso finora, diceva: ma per me non si tratta di passione, ma si tratta di noia. Hai ripensato, Stefano, al tuo giudizio? Io sono ancora d'accordo con me. Allora, il problema è, bisogna avere loschi amicizie, che vuol dire? Ma i coatti, queste cose tipiche, cose perché, da muratore borderline, che ne so, operai clandestini, giro di calcina rubata, mattonelle contraffatte, non so bene. Ma sì, in genere è droga quando sono... anche, sì, muratore. Spacci. Allora vuol dire che tumi. Questo ragazzo probabilmente va in giro fino alle 5 di mattina per cercare mezzo grammo di cocaina. Ma guarda, credimi, secondo me amicizie losche, che lei chiama losche, ma il problema è che questa ragazza non l'ha mai vista le amicizie losche e sta lì che... Vabbè, le basta questo simulacro di loscaggine. È troppo tardi, secondo me. Le cose vanno fatte prima e vanno scoperte piano piano. Ma piano piano, c'ha 25 anni, ma poveretta. Ma 25 anni sei donna, sei sposata. Io ho 28, ho una figlia. Ragazzi, non è che si diventa grandi a 40. Si diventa grandi dopo l'università. Ma scusami, ma tutti i cinquantenni, sessantenni dovrebbero negarsi comunque possibilità di esperienza, non hanno avuto prima. I cinquantenni si rinasce perché i figli sono cresciuti e poi ricominciare a fare... Quindi lei nell'età sfigata in cui non può fare niente. No, tu sei nell'età in cui devi costruire la famiglia, perché sennò non andiamo più avanti. Ho capito. La famiglia non si costruisce a 38. Ma è giusto, no, questo è giusto. No, no, questo è giustissimo che dici, Liliana, il principio, è giustissimo. Okay, però tu, siamo esseri umani, io non è che voglio giustificarti, ma poi non sono il giudice di nessuno. Ho preso una storia. Siamo esseri umani, siamo d'accordo. Ecco, raccontiamo cose che accadono al mondo. Nello standard, in generale, questa ragazza certe cose le doveva fare a 17. Sì, ma uno le fa anni. Quando gli capitano, scusa. Ma certo. Lei magari ha studiato architettura invece che andare a occupare l'università e quindi non ha pensato alle promiscuità delle occupazioni, quindi... Io non sto dicendo che è una colpa, sto dicendo dove lascia il problema della passione incontrollabile a 26 anni, perché se la ragazza l'avesse già conosciuta la passione, probabilmente non avrebbe tradito il marito, mi pare di aver capito che c'ha un marito, e quindi lascia là il problema. Guarda che i mariti, posso dirti una cosa, onestamente, i mariti si tradiscono a tutte le età, come anche le mogli d'altronde, non esiste un'età classica, si tradiscono una settimana dopo essersi sposati, si tradiscono alla vigilia del matrimonio, si tradiscono con sei figli dopo 30 anni di matrimonio, si tradiscono in un momento maledetto e casuale quando ci si trova in un viaggio d'affari, vale sia per i mariti che per le mogli, sono cose che ahimè accadono proprio perché siamo esseri umani, le passioni sono tali perché sono difficilmente controllabili. Io su questo non mi ergo né a giudice né a colui che deve assolvere comunque costumi di deviazioni dalle rette vie, però sono cose che accadono, io le registro in quanto tali. Grazie Stefano. Giulia, buongiorno. Sì Gianluca, non sono per niente d'accordo con Stefano, infatti. Beh, per fortuna, perché se fossimo tutti d'accordo sarebbe una noia. Guarda, perché lui confonde la noia, la passione praticamente con l'avventuretta, no? Ma guarda, secondo me Stefano, come tutti noi, compreso me, che abbiamo anche il nostro orgoglio di maschi e di mariti, ci sentiamo un po' rodere l'anima tutte le volte che vediamo un simulacro di moglie attentata da un simulacro di seduttore di mogli e ci mettiamo nelle condizioni di noi con muratori idraulici, esseri bruti ma appassionati che mettono in crisi le nostre sacrosante affettività. Però questo è un maschile limite che dobbiamo confessare. Sono un po' delle favolette, perché effettivamente io invece credo che essere toccati dalla passione sia una cosa bellissima, è un'esperienza che nella vita io auguro a tutti. Io l'ho provata, io mi ero sposata giovanissima, 20 anni, e avevo un bambino già e praticamente... ho conosciuto poi una persona, il mio matrimonio sì non era più tanto forte, però io per questa persona ho rivoluzionato tutta la mia vita e non me ne sono assolutamente pentita. Ecco, com'è scattata? Vorrei sapere il momento fatale in cui scatta la passione, quando uno se ne accorge. È possibile raccontarlo? Sì, certo. Guarda, è stata una cosa, se vuoi, banale, perché il classico vicino di casa che compra l'appartamento attaccato al tuo Noi ci siamo incontrati per la prima volta nell'atrio lui vicino all'ascensore ed è, guarda, io mi ricordo ancora, sono passati 25 anni Gianluca, ma è come se fosse adesso, mi ricordo la presenza di questa persona, questo sorriso, ci siamo come fusi in quel momento, guarda, è stata una cosa veramente che non abbiamo potuto... Cioè vi siete fusi lì nell'ascensore, no? No, adesso non esagerare, no, però diciamo che lì ci siamo conosciuti e io ho sentito subito che è scattato qualcosa. E ti era mai successo prima? Com'è? Ti era mai successo? No, mai e non mi è mai più risuccesso. Noi ora siamo insieme da 25 anni, per cui voglio dire... Beh, quindi non è stato... Una grande passione può essere anche la scoperta, ecco, di un grande non è amore. Stato un ratto di passione. Hai incontrato la persona che sarebbe stato meglio tu avessi incontrato magari qualche anno prima. Certo, è stata una cosa però meravigliosa. Certo, ma mi aveva comportato anche dei problemi, perché... Ah, me lo immagino. Avevo un bambino... Però è stato... Però diciamo che il problema minore è stato che tu non hai dovuto fare tanta strada, sei sempre uscita da casa tua, sei entrata a casa sua e finita lì. Sì, diciamo, però è stata una cosa importantissima nella mia vita, ha dato una svolta e non posso dire di essermene pentita. Come diceva Armstrong, un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per la tua vita. Sì. Quindi dal pianerotto, senti... Poi io me ne sono andata da lì, per cui non abitiamo più vicini. Ah, pensavo che semplicemente andata all'appartamento accanto. No. Beh, perché diciamo, era brutto. Poi io separandomi ho cambiato casa, una cosa o un'altra, e noi siamo sempre insieme e la passione è durata per anni e continua tuttora. Io se dovessi incontrarlo oggi così casualmente per strada, mi sentirei il tuffo al cuore. Che bello, vero? No, è bello, sì. Una grande invidia e una grande sicurezza anche per questo signore, visto che oggi i signori sono tutti preoccupati e sembra che scoprano improvvisamente che anche le donne possono provare delle passioni. Questo è un po' il limite oggi del genere maschile, che sembra non aver capito e compreso bene che quello che accade a noi maschietti spesso, mille volte al giorno, mille volte a settimana, accade anche alle nostre meravigliose controparti. Laura, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare la mia storia di passione che io vivo adesso, che non è una passione clandestina, le spiego brevemente. Io sono una persona che lavora nel mondo della consulenza e le mie due storie più forti, le storie sentimentali più importanti, io le ho vissute con persone che sono diventati, diciamo, dei importanti consulenti o comunque lo erano già quando io li ho incontrati. Quindi erano tuoi clienti oppure tuoi colleghi? Beh, nel primo caso era proprio il primo fidanzato della mia vita a 20 anni, che poi è diventato, vabbè, amministratore delegato di un'importante società e tuttora, voglio dire, lavora in quel settore, ci sentiamo, siamo ancora in contatto, eccetera, eccetera. Il secondo, quando l'ho incontrato, era un consulente e adesso, diciamo, è un general manager di una importante... Beh, porti fortuna, te sei come il tocco di Remida, converrebbe avere storie non d'amore. Non credo. Beh, tutti... Non credo, soprattutto perché nel secondo caso è stata una storia di corna più che di amore, insomma, perché poi lui, insomma, si faceva le sue storie in giro da brava persona, insomma, che sapeva affascinare, eccetera, eccetera. E invece adesso, all'età di 48 anni... Beh, neanche te mi sembra che perdi tempo, scusa. In che senso? Cioè non, mica dico che ciò sia sbagliato. Lui andava in giro e esercitava il suo fascino, mi sembra che lo faccia anche tu nel tuo ambito lavorativo, con passione, con grandi risultati, con grande benevolenza nei confronti di chi ti si avvicina e ti ama, perché diventano tutti grandi manager, ma non mi sembra che stia con le mani in mano. Dipende sempre delle modalità in cui eserciti il tuo fascino, no? Nel senso che poi nella nostra professione c'è un codice etico, per cui voglio dire, posso usare proprio dei termini un po', non puoi usare il tuo fascino per portarti a letto poi le persone che hai informazioni. Non si dà al cliente, diciamo così, tradotto in termini... Esatto, no? Eccomi qua, mi ero un attimo distratto, stavo segnalando al pubblico di Facebook che oggi ho poca interazione con loro, ma mi dedico al pubblico della radio. E poi devo dire che in studio fa un gran caldo perché c'è Roberta Cirillo che sta smanettando con un paio di computer, mi sta mandando in diretta video. Mi ero interrotto con Laura che stava commentando il suo iter professionale passionale. Laura, buongiorno, di nuovamente in linea, eccomi qua. Sì, buongiorno. Perché ridi? No, sorridevo per il culo dell'escursus professionale, passionale. Ma è vero, non è questo? No, no, ma è vero, perché comunque sia... Al di là del dettame ferreo nel scritto con lettere di fuoco nella coscienza del consulente, mai concedersi al cliente, mi sembra che via via ogni tanto accada. Consulente donna. Consulente ah no, perché invece donna, consulente perché... uomo può? Il consulente uomo sì, se lo può permettere. Terrificante, guarda, io ho avuto un periodo sfortunatissimo della mia vita in cui ero un top manager e avevo spesso a che fare con società di consulenza. E viene ogni tanto questi consulenti. Era, devo dire, una tristissima genia di persone. Mi mandavano poi, come sempre succede, come fate voi, società di consulenza. All'inizio vengono i senior e ti fanno fare una bella figura, poi ti mandano ragazzetti di primo pelo che stanno lì a perdere tempo, ti riempiono slide giorno dopo giorno di quello che tu dici, poi te lo confezionano e ti fanno vedere quello che hai detto, non so cosa servono. Poi ogni tanto capitava che ci fosse qualche consulente donna. Erano sempre molto, molto simpatiche e avvenenti, ma sempre tenute in un livello di gerarchico di inferiorità rispetto anche al loro collega maschietto, seppur sprovveduto. Accade così? Sì, sì, sì, è così. Purtroppo è così. Vi tengono un po' come specchietto per le allodole. Ti mandano tre cretini e una bella ragazza, così tu ti accorgi meno dei cretini. Forse per questo. È vero? Beh, io non sono, cioè voglio dire, mi difendo bene, ma non è che sia una roba... Beh, mi sembra che tu hai un gran successo, scusa. Chi ti tocca diventa un super manager. No, beh, chiaramente poi voglio dire, alla fine dei conti poi quello che contano è i risultati, sono i risultati che tu porti. Va bene, allora andiamo all'osso della tua storia. Allora, chi ha con te passionali rapporti diventa top manager, ma tu nel tuo cuore passionale in realtà ti cedi a un muratore, una cosa del genere. La mia passione io la vivo con un uomo di 45 anni che fa il muratore. E questo adesso ce lo devi spiegare. No, perché noi abbiamo lanciato l'immaginario dell'idraulico già da quest'estate nello spot di lancio di Melog. Io dicevo che avrei fatto l'idraulico, oggi l'idraulico Joe è diventato il punto di discrimine della campagna per le presidenziali americane. Oggi rinnoviamo questa nostra felice intuizione con il muratore. Abbiamo capito che il muratore ha qualcosa in più rispetto al top manager e quindi faccelo capire te che conosci entrambi. Dunque, diciamo che c'è la passione è... almeno quella che vivo io è molto carnale, ma non nel senso soltanto a livello sessuale, ma proprio forse per il tipo di lavoro che lui fa, cioè lui ecco perché scusa hai dovuto specificare perché hai dovuto specificare, e questo mi interessa molto, hai detto è molto carnale ma non solo a livello sessuale, ma laddove carne esiste un trascinamento dei sensi, quindi una sessualità, una stretta di mano, una carezza, osservare un corpo anche nelle sue imperfezioni è comunque un atto di profonda dedizione sessuale, non trovi? Sì, sì. Dovevi dire non genitale magari, ecco. Sì, ecco, no, non così, perché magari purtroppo oggi noi viviamo... il sesso molto a livello genitale e poco a livello dei sensi. Ma no? Oddio, anche infatti, su quello avrei qualcosa da dire, comunque dai. Però, insomma, è così, almeno per me, insomma, per come la sto vivendo io, ed è il classico muratore di cui parlavate prima. Ma cioè, puzza di calcina, di sudore? Sì, ma che alle spalle è un passato torbido. E il tuo cosa ha fatto di torbido nel passato? Io? No, il tuo muratore cosa ha fatto di torbido? Il mio, beh, storie un po' legate... droga, cosa di queste. Ah, vedi, aveva ragione il nostro ascoltatore, è un classico. Nei topoi dei muratori esiste un muratore che ha avuto storie di droga. Sì. Magari si è fatto una canna quando aveva 15 anni, però visto che funziona. Vabbè. Ancora funziona fare il bel tenebroso, il maledetto con voi signore di buona famiglia? Pensavo che fosse una cosa ormai passata. Secondo me io ho trovato una cioè non un essere vero che nelle persone che poi frequento per lavoro, diciamo perché dai, non voglio generalizzare, no? Ma in lui, se faccio il confronto con i miei ex, ecco, io trovo questo, cioè una naturalità che invece in altre persone non trovo. Perché purtroppo il difetto del consulente è che vende anche quando viene a casa. E quindi ti vende il paradiso più bello quando in realtà dietro c'è lo squallore più infinito. Quindi tu hai conosciuto lo squallore nei tuoi colleghi, nelle persone che frequenti nel tuo mondo, hai trovato quella naturalità che fa scatenare appunto la passione nel muratore. Ma dove l'hai conosciuto il muratore? Ah Dio, questa è una storia un po'... Ma velocemente. Un po' particolare. Il luogo fisico. Allora, il luogo fisico è stato un ospedale. Io facevo un altro lavoro, perché questo è un altro pezzo della mia vita, e lui era praticamente il compagno di una persona che poi purtroppo è deceduta. Ah, beh. Però questa lo dico un po' così. La sì, parte sì, no, perché ti si attribuiscono dopo doti che vanno oltre la normalità. Vabbè, hai conosciuto in ospedale quando tu facevi l'infermiera, la dottoressa e non so bene cos'altro in un ospedale, è scoppiata la passione e tu hai continuamente questo paragone brutale ma fortemente carnale che contrapponi a quei mollicci, umidicci, frutti di palestra e tapis roulant dei tuoi colleghi, a cui però porti una gran fortuna, quindi compensi il fatto che non li gratifici con il dono supremo della soddisfazione, la tua passione appagata. Ho detto qualcosa che non è giusto? No, credo che hai detto qualcosa che si avvicina al vero. Va bene, ti saluto. Ti meriteresti la motosega perché sei stata oltre il tempo massimo, visto che il tempo massimo ormai si è esaurito anche per noi. E mi scuso con Franco e Antonio che stanno fremendo in attesa per dire anche loro quanto le donne sono cattive e immotivate quando tradiscono la coppia, ma avranno modo di dirlo domani. Domani parleremo di Facebook, parleremo finalmente di ciò che chi ascolta soltanto la radio non conosce bene, e in questo ambito, visto che si sta dicendo che per Monti è luogo di cultura, di passioni insane, immotivate, illusorie, loro riparleranno domani e collocheranno la loro esperienza in questo ambito, in questo discorso. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.